Bologna e dintorni. Come va il mondo? Sabato 29 marzo, io sono Alessandro Albana e vi do il benvenuto alla 24esima e ultima puntata di Bologna e dintorni prima della pausa che ci vedrà lontani da queste frequenze per il mese di aprile, ma non preoccupatevi perché, come anticipato, torneremo a accompagnare i vostri pranzi da sabato 10 maggio. Dunque, in questi giorni ha tenuto banco ed è stato un certo scalpore la indiscrezione emersa a mezzo stampa della volontà e della possibilità dell'invio di truppe di pace, di caschi blu, da parte della Cina nel conflitto ucraino. La indiscrezione, che faceva riferimento a fonti interne, addirittura al regime cinese, è stata però dopo poco smentita dal Ministero degli Esteri di Pechino. Resta però il fatto che la Cina guarda con attenzione agli sviluppi del conflitto tra Kiev e Mosca, nonostante le note affinità e la partnership che va consolidandosi con la Russia. Insomma, la Cina, è lecito pensare, sulla base della sua politica estera, degli interessi che la sostengono, che insomma di quanto sta accadendo sul fronte ucraino non sia molto contenta. Quindi l'apertura degli scenari post bellici che si presenteranno dopo la fine, speriamo vicina, del conflitto, sono di grande interesse per Pechino, e in quel contesto è lecito e plausibile aspettarsi qualche intervento più deciso, ma vedremo di capirne di più con l'ospite di oggi. L'altro fronte molto rilevante nell'ultimo periodo riguarda le relazioni tra la Cina e l'Unione Europea, relazioni che negli ultimi 10 anni hanno subito un notevolissimo deterioramento. Insomma, siamo quasi ai minimi storici degli ultimi decenni. La Cina e l'Unione Europea hanno diversi capitoli di scontro e confronto aperti, innanzitutto naturalmente l'economia e il commercio, ma ci sono anche dei rilievi molto significativi sul piano della diplomazia e della politica. Infatti dal 2021 sono in vigore sanzioni bilaterali, quindi da parte di Bruxelles nei confronti di Pechino e viceversa. Anche su questo fronte si registra qualche novità. In questi giorni le istituzioni europee hanno sospeso il divieto per i funzionari e i parlamentari europei di incontrare i loro omologhi cinesi. Naturalmente le sanzioni restano in piedi, ma questa decisione apre degli spiragli di dialogo tra la Cina e l'Unione Europea. Altri segnali di un possibile miglioramento delle relazioni bilaterali sono arrivati dalle parole pronunciate negli scorsi mesi dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che mantiene tradizionalmente una posizione estremamente severa nei confronti delle richieste alla controparte cinese. Ursula von der Leyen ha sostanzialmente aperto alla possibilità e all'opportunità che si costruiscano e si sviluppi un dialogo più costruttivo con la Cina. Dello stesso tenore sono state le dichiarazioni della Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Insomma, ci sono degli spiragli positivi, resta il fatto che si tratta di piccoli segnali che sono oggetto di grandi contraddizioni, perché dall'altro lato, insomma, la Cina e l'Unione Europea continuano a guardarsi con sospetto e una certa sfiducia. Un decennio di congelamento, di progressivo deterioramento delle relazioni bilaterali non può essere certo cancellato con un colpo di spugna. In questo quadro sembra essere rilevante anche l'impatto dell'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, che come sappiamo ha provocato degli scossoni notevoli alle relazioni transatlantiche, che insomma ha spinto le istituzioni e le autorità europee a considerare gli omologhi statunitensi non più come interlocutori credibili, o comunque non credibili come in passato, e il riorientamento o l'apertura di spiragli di dialogo con la Cina sembra essere in parte o prevalentemente il risultato di questi processi. Infine, in Cina all'inizio di questo mese si è aperto l'appuntamento annuale dell'Assemblea Nazionale del Popolo, considerato un po' il Parlamento cinese, riunito nella convocazione annuale nota come due sessioni. Le due sessioni sono importanti in particolare per capire in che direzione si muoverà l'economia cinese il prossimo anno, per comprendere il significato e gli sviluppi dei tanti fronti su cui la Cina è impegnata con grande rilevanza questi giorni. Vi chiedo di aspettare ancora qualche minuto prima di sentire l'ospite di questa puntata. To Beijing, da Pechino, questi erano i Brain Failure. Dunque, caschi blu sì, caschi blu no. Le indiscrezioni emerse in questi giorni relative al possibile invio di truppe di pace cinesi in Ucraina sono evidentemente molto contraddittorie. Per provare a capire di più di questa vicenda, siamo oggi in collegamento con Cecilia Attanasio Ghezzi, giornalista e collaboratrice di Internazionale ed esperta di Cina. Buongiorno Cecilia e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno a voi. Dunque, le notizie che sono emerse a mezzo stampa, ma le cui fonti sarebbero da rintracciare addirittura dentro il regime cinese, rispetto alla disponibilità di Pechino di inviare truppe di pace in Ucraina appena i tempi saranno maturi, poi hanno visto invece la smentita da parte del ministro degli esteri cinese. Come possiamo leggere questa vicenda? Allora, come al solito, leggere la Cina è complesso. Diciamo, la smentita avviene in sede ufficiale perché avviene nella quotidiana conferenza stampa che il ministro degli affari esteri o più frequentemente i suoi portavoce fanno ogni mattina. Ed è una smentita a un'indiscrezione uscita un paio di giorni prima su un quotidiano tedesco, Die Welt. Questo quotidiano di fatto non dava effettivamente una notizia, ma citava una fonte anonima diplomatica dell'Unione Europea che fondamentalmente ventilava l'ipotesi di un'inclusione della Cina in una coalizione dei volenterosi. Essendo un'indiscrezione, essendo che la coalizione dei volenterosi è ancora in corso di definizione, la smentita volendo è doverosa. Questa voce però fa seguito a una serie di indiscrezioni e di pedine che sicuramente stanno valutando anche queste ipotesi. Diciamo, a febbraio l'Economist, il settimanale britannico, si era chiesto in un articolo: ma in Europa potrebbero arrivare i soldati cinesi? E fondamentalmente evidenziava quella che è sempre la condizione di Pechino per intervenire. Cioè, la Cina in questo momento è in una condizione attendista, di fatto sta a guardare, aspetta che la situazione si stabilizzi, perché fondamentalmente fino a qui ha tirato avanti questo legame di partenariato con la Russia molto stretta e sappiamo che Vladimir Putin, il presidente, sta rifiutando la presenza di militari dei paesi NATO, mentre invece l'Europa sta spingendo, l'Europa, diciamo soprattutto a questo punto, Francia e Gran Bretagna stanno spingendo per inviare truppe. Volevo sottolineare anche che comunque la Cina tiene molto alle operazioni di mantenimento per la pace nelle Nazioni Unite. E diciamo che ha circa 2.000 soldati impegnati in diversi fronti di mantenimento di pace, anche in Libano, solo per citare un paese a noi vicino. E un'altra cosa da sottolineare è che lo scorso autunno, su un pulso cinese, è stata creata una coalizione di 17 stati del cosiddetto sud globale che si sono autodefiniti Amici per la Pace e che sicuramente, e questo è stato anche ribadito recentemente dal portavoce del ministro degli esteri cinese, sono pronti a contribuire a una risoluzione pacifica del conflitto. Quindi diciamo che alla Cina non dispiacerebbe in un contesto in cui si è raggiunta una tregua duratura, mettere le proprie truppe a mantenimento della pace e conoscendo anche gli scopi poi cinesi, e questo era molto esplicito all'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina, sicuramente vorrebbe essere presente in un'eventuale ricostruzione del paese. Sì, Cecilia, dall'inizio del conflitto in Ucraina la Cina ha, diciamo, mantenuto la stessa posizione diplomatica, una posizione di formale equidistanza da Mosca e Kiev, anche se poi sappiamo, conosciamo la centralità delle relazioni tra Pechino e Mosca e la stessa Cina non ne fa mistero. Pechino in questi anni è stato l'unico grande attore internazionale a poter interloquire sia con la Russia sia con l'Ucraina, proponendosi peraltro come agente mediatore del conflitto. Sono state proposte diverse ipotesi di risoluzione del conflitto proprio dalla diplomazia cinese. Queste proposte sono state rimandate al mittente dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea che le hanno definite non credibili. Da Bruxelles e Washington però in questi anni non sono arrivate proposte di alcun tipo relativamente a un piano di pace o per una soluzione diplomatica del conflitto. Ti chiederei a questo punto come si dividono le quote di ipocrisia attorno a questo tavolo. Allora, guarda, la situazione sicuramente è molto complessa. Stati Uniti e Unione Europea, fino a, diciamo, alla vittoria presidenziale di Trump, erano più o meno allineate nel non far entrare, la Repubblica Popolare Cinese in questo conflitto. È chiaro che per Mosca, Pechino sarebbe un garante, diciamo che attualmente Pechino tiene in qualche maniera in piedi anche l'economia russa. L'Ucraina ha sempre detto che sarebbe stata pronta a dialogare con Xi Jinping e con il suo paese, anche perché anche lì gli interessi cinesi in Ucraina non sono pochi e viceversa. L'Europa in questo senso si era allineata agli Stati Uniti. Ma l'avvento di Donald Trump con, diciamo, la minaccia di dazi, minaccia che si sta rivelando realtà, e l'idea di un disimpegno sempre più importante di sostegno economico e militare all'Unione Europea ha fatto sì che Bruxelles ricominciasse a guardare a Pechino con maggiore interesse, maggiore simpatia. Non è ancora realmente definito questa posizione. Sicuramente quello che sta succedendo è che l'Unione Europea si trova a dover far fronte a un'improvvisa assenza del sostegno atlantico e probabilmente sta cercando di contrattare un impegno più importante da parte di Donald Trump e in questo senso la carta cinese può mettere in difficoltà gli Stati Uniti. Questo lo vediamo soprattutto per quanto riguarda le relazioni tra Cina e Unione Europea. Vediamo che recentemente Bruxelles ha cancellato le restrizioni che esistevano dal 2021 per gli incontri tra i parlamentari e che sta rivalutando il dossier sulle auto elettriche, che diciamo è molto importante in questa fase per tutto quello che riguarda l'economia, nel senso che l'Europa di fatto ha fermato quella che da molti è stata definita una potenziale inondazione del mercato europeo di auto elettriche cinese, che sarebbero state molto probabilmente a basso costo. Si parla delle cosiddette utilitarie elettriche, quello che le case produttrici europee non hanno fatto, e diciamo anche quelle statunitense, la Tesla in testa a altri prezzi. Questo dossier è importante per la Cina e per le esportazioni della Cina, è importante per l'Europa che deve decidere che cosa deve fare del tanto sbandierato Green Deal. Ed è importante nella negoziazione dei dazi. Ora, anche qui la Cina sta a aspettare, la Cina è attendista, anche perché potrebbe avere un vantaggio molto grosso se il mercato europeo aprisse in qualche maniera. Non possiamo pretendere un'apertura totale, una chiusura forse più morbida, una mezza apertura appunto alle case dell'automotive cinese, soprattutto per quanto riguarda l'elettrico. Ma avrebbe anche da guadagnare nel caso in cui l'Unione Europea non riuscisse a trovare una posizione unica e si trovasse così spezzettata in tanti piccoli stati con cui fare accordi bilaterali. Cecilia, abbiamo ancora pochissimi minuti, ti chiedo una battuta telegrafica su le due sessioni, l'appuntamento annuale dell'Assemblea Nazionale del Popolo, il Yanghui, cioè il Parlamento, quello che è considerato il Parlamento cinese, e le due sessioni si sono concluse da pochi giorni. Ti chiederei quali sono gli elementi su cui si è concentrata la politica e il dibattito politico cinese all'interno delle due sessioni e quali conclusioni sono state raggiunte dalle due sessioni? Cosa esce dalle due sessioni? Questo intanto dobbiamo dire che è l'anno con cui si chiude un piano quinquennale, quindi si pone un obiettivo di crescita del prodotto interno lordo un pochino più basso rispetto all'anno scorso, però comunque intorno al 5%. Per il raggiungimento di questo obiettivo di crescita si stanzia un debito molto alto, diciamo intorno al 4% del PIL. E questo che significa? Significa che la Cina cerca, come sappiamo, sempre stabilità e sicurezza. La Cina si rende conto che l'ambiente internazionale è in continuo movimento, si rende conto di avere una serie di difficoltà interne che abbiamo visto durante tutti questi anni e punta sul proprio mercato. Proprio mercato vuol dire cercare di ridare fiducia ai propri consumatori e nello stesso tempo ci sono incentivi molto grossi su tutto quello che riguarda le nuove tecnologie, quindi intelligenza artificiale e appunto elettrico, l'abbiamo detto prima con le auto, molto importanti. Bisognerà vedere alla fine di quest'anno, nella pratica, quale sarà poi la crescita del PIL e se queste misure di sostegno all'economia basteranno a far riprendere i consumi interni. Bene, insomma, le vicende di questi giorni e i fatti di cui abbiamo parlato confermano, sembra ce ne fosse bisogno, che con la Cina, volenti o nolenti, avremo a che farci e abbiamo a che farci anche oggi. Cecilia, il nostro tempo è finito. Io ti voglio ringraziare per il tuo tempo e la tua disponibilità. Grazie a te. Prima di chiudere, vi ricordo che Bologna e dintorni si prenderà qualche settimana di pausa e non vi terrà quindi compagnia nelle prossime settimane. Torneremo a funestare i vostri pranzi del sabato a partire dal 10 maggio. Io vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento a prestissimo su Radio Città Fucico.